16 anni o poco più, occhi neri nati noi su, campionessa di Bugibu a tutti quanti da del sud. Studentessa, ma chi lo sa, alla scuola quando ci va, passa il tempo nei cinema o a passeggiare per la città. Così com'è la mia ragazza piace a me, con quel musino di monella americana, è un po' strana, ma così com'è piace tanto tanto a me. Pensate un po', si fa baciare solo a tempo di postro, per divertirsi poi mi scioglie la cravatta. Ma la matta, balle bugibù, non ragiona più, è un poco stupidella, non lo sa che innamorare mi fa. Ma è veramente bella e nel suo cuore nasconde tanto candore. Così com'è la mia ragazza piace a me, con quel musino di modella americana, è un po' strana, ma così com'è. A me piace immensamente, con quell'aria impertinente, ma penso che, così com'è, se me la sposo cosa mai sarà di me. Innamorare mi fa, ma è veramente bella e nel suo cuore nasconde tanto candore. Così com'è la mia ragazza piace a me, con quel musino di monella americana, è un po' strana, ma così com'è. A me piace immensamente, con quell'aria impertinente, ma penso che, così com'è, se me la sposo cosa mai sarà di me, la sposerò così com'è.